Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata speciale, lo anticipo subito, nel senso che avremo da un lato un punto dovuto, e ci mancherebbe, sulle operazioni di soccorso che stanno avvenendo, che stiamo raccontando con speciali, con dirette, con breaking news da questa mattina, e quindi per quello che riguarda il tentativo, al di là dei sette superstiti, tra cui tre bambini ritrovati, questa è veramente la prima buona notizia da un po' di ore, restano ancora i tentativi di recuperare altre persone e altre segnalazioni. Faremo il punto tra brevissimo. E dopo, invece, alle 17.50, inizieremo la lunga diretta del discorso di investitura del presidente, neopresidente americano Donald Trump, in attacco, come già GR24 vi ricordava. Il giorno dell'insediamento come cerimonia è già iniziato, la consegna, lo scambio di doni con il presidente uscente, mi riferisco quindi a Barack Obama e a Michelle Obama, però poi il discorso, che dovrebbe durare circa 20 minuti se abbiamo ben capito, avverrà alle 18 ora italiana. E tra l'altro una quarantina di deputati democratici hanno boicottato il giuramento, impressionante lo spiegamento di forze, 28.000 agenti per una spesa di 100 milioni di dollari a carico del governo. Ne parleremo chiaramente alle 17.50. La puntata quindi è particolare, non ci sarà, lo dico subito, la classifica, la poco invidiabile classifica di Focus Economia, non ci sembra il caso con quello che sta capitando, e soprattutto la rinvieremo alla prossima settimana. Purtroppo materiale ne avevamo anche questa settimana, ma ci è sembrato più opportuno restare sulla cronaca, la cronaca più urgente. Ancora avremo invece aggiornamenti di borsa e il commento sulla chiusura di borsa. Parto subito da qui: più 0,20% Milano in questo momento, più 0,27% Parigi, più 0,24% Francoforte, mezzo punto percentuale rialzo del Dow Jones, meno 0,07 invece Londra, euro su dollaro 1,06. Tra i titoli segnalo il calo di Yux Net-a-Porter, meno 4%, UbiBank meno 2, UniCredit meno 1,60, bene invece BPerBank più 2,20, Moncler più 1,30, CNH Industrial più 1,20, Fiat Chrysler più 1%, come Italgas e Telecom Italia. 349-238-6666 resta il numero per SMS e WhatsApp. Ricordo che poi avremo anche aggiornamenti nella programmazione successiva, un punto ora alle 20, sempre in tema di soccorsi sul Gran Sasso e non solo, e punto comunque nelle aree. Ci collegheremo anche alle 17.30 invece con Amatrice, dove c'è il nostro Vincenzo Miglietta, perché c'è stata l'assegnazione, la lotteria per l'assegnazione degli alloggi. Detta così non è il massimo, però ne parleremo. E alle 21 vi sarà una lunga diretta di Effetto Notte che si prolungherà fino alle 23 per fare il punto, ormai a sera inoltrata, della situazione dei soccorsi e delle persone, ci auguriamo delle altre persone che ci auguriamo possano essere tratte in salvo. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, al di là di quello che sarà l'insediamento vero e proprio di Donald Trump, oggi di nuovo da Davos ha parlato Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, spiegando che il protezionismo danneggerebbe la crescita, i dazi annullerebbero l'effetto positivo dello stimolo di bilancio. Ancora, sempre la Lagarde ha detto c'è un grande rischio, l'economia mondiale rischia un cigno nero, ossia Cigno Nero è un famoso libro, una situazione, diciamo, di un insieme di fattori che vengono a coagularsi tutti assieme, che avrebbe effetti devastanti se si ripetessero nel 2017 in maniera negativa tutti gli elementi di rottura che ci aspettiamo sulla base di quanto accaduto nel 2016, e se si andrà in una corsa a ribasso sul fronte fiscale e del commercio internazionale e della regolazione finanziaria. E il ministro delle finanze tedesco Schäuble, intervenuto sempre a Davos, ha detto: non riesco davvero a immaginare che l'amministrazione Trump arrivi a danneggiare seriamente il libero commercio mondiale. Il presidente dell'Eurogruppo, della Commissione Europea, scusatemi, Jean-Claude Juncker, ha esortato Trump invece a non rinunciare alla stretta collaborazione con l'Unione Europea sulle questioni internazionali e sui temi del cambiamento climatico, dell'immigrazione, del terrorismo e degli effetti sociali della globalizzazione. Ancora, per quello che riguarda i giudizi che stanno arrivando, Larry Fink, che è il numero uno del colosso finanziario mondiale BlackRock, il fondo di investimenti più grande al mondo, durante i lavori del forum di Davos, ha detto: insomma, la nuova amministrazione Trump farà politiche rumorose, agitate e decise, ma dovrà fare i conti con probabili tensioni con la Federal Reserve, con l'apprezzamento del dollaro, quindi con il rafforzamento del dollaro, e con i creditori degli Stati Uniti, il primo del quale è la Cina, cioè chi ha più debito americano nel portafoglio. E anche la Banca d'Italia vede rischi sulla crescita economica dal diffondersi di spinte protezionistiche. Nel 2019 il PIL italiano, stima la Banca d'Italia, sarà di 4 punti percentuali, ancora inferiore al 2007, se fossero confermate le stime diffuse. La Banca d'Italia le ha ancora più positive rispetto al Fondo Monetario, cioè stima quest'anno un più 0,9 per l'Italia e un più 1,1 sia nel 2018 che nel 2019. E le ha confermate queste stime, quindi ricordo che il Fondo Monetario ha detto 0,7 quest'anno e 0,9 l'anno prossimo, Banca d'Italia continua a confermare 0,9 quest'anno e 1,1 per i due anni successivi. La Procura di Trani ha chiesto la condanna per manipolazione del mercato e 2 anni di reclusione e 300.000 euro di multa per Devin Sharma e per Ian Lepalek, rispettivamente responsabili per Standard & Poor's, era presidente mondiale Sharma, mentre ha chiesto 3 anni di reclusione ciascuno e 500.000 euro di multa per Ian Lepalek, dicevo, responsabile per l'Europa, e per gli analisti del debito sovrano Ilan Zhang, Franklin Crawford Gill e Moritz Kramer, sostanzialmente per la società Standard & Poor's. È stata chiesta la condanna alla sanzione pecuniaria di 4.650.000 euro, scusatemi, di sanzione. Qual è il motivo per la manipolazione di mercato successiva al rating che Standard & Poor's diede all'Italia? Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Qualcuno mi scrive: chi se ne frega di Trump, dateci solo notizie da Rigopiano. No, mi dispiace, non sono d'accordo, è l'investitura del presidente americano, gli Stati Uniti restano la più importante potenza mondiale, e sarà interessante capire anche quanto di istituzionale ci sarà nell'intervento di Trump per l'investitura e quanto invece di poco ortodosso, poco convenzionale, poco istituzionale. Comunque, andiamo invece sul racconto, sull'aggiornamento, visto che il racconto lo stiamo facendo da ieri mattina, sicuramente di quanto sta capitando all'hotel Rigopiano, ma anche di un punto più complessivo, e lo facciamo con i nostri colleghi, sia quelli che stanno seguendo in studio la vicenda, sia quelli che sono inviati sul territorio. Allora, da quello che ho visto, ci sono, in questo momento restano 7 superstiti, di cui 3 bambini, quelli ritrovati dai soccorritori sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. Ma la cosa più interessante, dove c'è maggiore speranza, è quella del e sono le comunicazioni dei Vigili del Fuoco che ricordano che sono stati individuati altri dispersi in fin di vita. E vorrei fare subito il punto su questo con la nostra Laura Bettini, che sta seguendo nel pomeriggio tutti gli sviluppi e gli aggiornamenti. Laura. Sì, buonasera Sebastiano, buonasera a tutti. È straordinario quello che sta succedendo a questo hotel Rigopiano, dove purtroppo ci sono sì delle vittime, come ci aspettavamo tutti, ma ci sono anche dei superstiti a 48 ore dalla valanga che ha travolto questo hotel. 6 persone sono state tratte in salvo, vuol dire che sono fuori da lì. Altri, come dicevi tu, sono stati individuati. Quindi è stata raggiunta una 7ª persona, si è entrati in contatto con altre 3 persone, una donna e 2 bambini, e quindi è davvero, come si suol dire, anche con modo di dire fatto, ma comunque una corsa contro il tempo, perché il più passa il tempo più ovviamente, certo, si rischia che quante si perda. Sarebbero le persone che i Vigili del Fuoco indicano come possibile salvataggi? A questo punto siamo a 10. Potrebbero essere 10, forse 11 a questo punto. C'è chi dice 11, che sono i quotidiani locali. Il centro di Pescara dice che probabilmente siamo arrivati a 11. Se io faccio i conti di quello che ha abbattuto l'agenzia ANSA, arriviamo a 10, quindi siamo su 2 numeri diversi. Però è chiaro che i soccorritori hanno individuato il luogo in cui bisogna cercare. I primi sono stati trovati in cucina, il primo gruppo che è stato salvato, altri sono stati trovati in un'altra sala comune dove mi sembra ci fosse un biliardo, e abbiamo capito così dal racconto di Marco Bini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Stanza a Roccaraso, che è stato intervistato da Daniele Morini, che a dare un'indicazione fondamentale sono stati dei piccoli incendi, dice lui, un camino, qualcosa che bruciava nelle cucine, ha continuato a bruciare per tutte queste ore, alla fine gli ha indicato la via, perché il fumo brucia solo se c'è ossigeno, e quindi loro, cioè il fuoco brucia se c'è ossigeno, e quindi loro hanno seguito il fumo per arrivare. Sentiamo cosa ha detto. Abbiamo cominciato a scavare dove vedevamo che c'era un po' più, che si sfondava, che si apriva, però certo non è stato facile, perché comunque c'erano lamiere, cemento, quindi ogni tanto ti dovevi fermare, magari scavavi un metro, due, e poi trovavi il cemento, quindi comunque anche grazie ai Vigili del Fuoco comunque noi siamo riusciti piano piano, poi c'era questo fumo che usciva, quindi noi anche da lì in più punti abbiamo scavato, noi e i Vigili del Fuoco, quindi con i cani e tutto quanto, poi siamo riusciti a scavare, assolutamente non si sentiva niente dall'esterno, finché non siamo riusciti ad aprire un barco. Erano stravolti e allo stesso tempo felici, proprio una cosa indescrivibile, non so come dirvi, perché le bambine, cioè loro probabilmente neanche si sono rese conto, erano piccoline, però sicuramente erano felici, insomma, no? Sono arrivati i soccorsi, poi loro vedono l'elicottero, erano stravolte. Allora, fermati un attimo Laura col racconto, restiamo ancora sull'hotel Rigopiano, che chiaramente è l'emergenza dentro l'emergenza. Siamo in collegamento di nuovo con l'inviato del Sole 24 Ore, Mariano Maugeri, che è in collegamento da Penne, in provincia di Pescara, dove, come molti di voi ormai sanno, è il quartier generale dei soccorsi. Mariano, buonasera. Hai altri aggiornamenti rispetto a quelli che noi stiamo vedendo dalle agenzie? No, diceva benissimo Laura, secondo me potrebbero essere 11, però è tutto a questo punto, c'è un grande punto interrogativo, perché bisogna capire se non ci sia un'altra situazione analoga da un'altra parte, capisci? Quindi come si fa a dire? È un terno così all'otto, bisogna a questo punto sì continuare a lavorare e a sperare, potrebbero essere anche di più, perché no? Non si può più escludere nulla a questo punto. Allora, per quello che riguarda invece il soccorso, io non voglio entrare in nessuna polemica, c'è un ascoltatore che mi scrive, sono 48 ore che continuate a chiedere e sparare numeri sui superstiti, perché i giornalisti sul posto non prendono in mano una pala e si rendono utili. Non solo forse Sebastiano, ma a parte questo è che rispondiamo all'ascoltatore, non c'è certezza su quanti fossero esattamente. Allora, sui numeri non c'è certezza, no, ma guarda, ho qualche dimestichezza con alcuni ascoltatori. È vero, No, ma ti dico perché, allora, non c'è certezza sui numeri e meno male che non c'è certezza, se vuole che le risponda in maniera anche un po' seccata, perché sennò siamo partiti da ieri con l'ipotesi peggiore in cui non vi sarebbe stato nessun superstite. Meno male che non c'è certezza, meno male che il numero delle persone che potrebbero essere salvate e che quindi potrebbero essere superstiti aumenta di volta in volta. Uno. Due, ognuno faccia il suo lavoro. Adesso chiederò a Mariano infatti come vanno i soccorsi, e quindi il giornalista con la palla non lo voglio neanche vedere, nel senso che i volontari ci sono, ma il problema non è quello. Visto che lei parla della pala, se la prende lei la pala, e qui mi fermo perché non voglio essere volgare in questo momento. Mariano, poi se vuole le spiego con calma anche cosa fare di questa pala all'ascoltatore. Mariano, invece, dimmi una cosa, il tema dei soccorsi, perché da questo punto di vista abbiamo visto un po' di polemica, non mi sembra il momento ancora per la polemica, sul tempismo, su non aver previsto cosa sarebbe successo con l'ondata climatologica, e vabbè. Detto questo, a quel punto quello che tu vedi come centrale operativa dei soccorsi, che cos'è? No, ma adesso nulla da eccepire. Il problema è che i soccorsi si sono messi in moto mercoledì nella tarda mattinata, primo pomeriggio, cioè dopo le scosse, appunto le prime scosse, la prima mi pare che fosse intorno alle 10:25, 10:15, insomma, c'è voluto il terremoto affinché poi si intervenisse e ci si rendesse conto che qui la situazione era drammatica, ma non soltanto a Penne o a Rigopiano, è drammatica in tutto l'Appennino, Campotosto, Montereale, Capitignano, si potrebbe fare un lunghissimo elenco dei paesi colpiti da questa straordinaria nevicata e dal terremoto. Ecco, credo che il combinato disposto terremoto e nevicata ciclopica non l'avesse ancora mai sperimentato nessuno, noi l'abbiamo sperimentato. L'altro elemento negativo che poco si sottolinea è che il teatro sismico di cui stiamo parlando, in questo caso poi vanno sempre sommati due fenomeni, il sisma e la nevicata, è di una estensione, è il più grande cratere sismico della storia italiana, perché non è mai accaduto che quattro regioni, anche se pezzi di queste quattro regioni, fossero contemporaneamente coinvolte e sottoposte a questo bombardamento sismico che dal 24 di agosto non si arresta e non si capisce bene quando si fermerà e se mai si fermerà, perché per esempio all'Aquila, dove con i terremoti diciamo hanno una certa dimestichezza, sostengono che queste siano sia uno sciame sismico diciamo da fase precedente alla grande botta, perché poi la domanda, siamo in fase appunto ascendente o in fase discendente? Questo purtroppo i sismologi non sono in grado di dircelo, quando ci hanno provato hanno sbagliato, con tutta la buona volontà, per carità. Però capisci che anche la situazione psicologica è quella che è gente che sta da sei mesi sotto un bombardamento in tempi di pace, non credo che sia... Guarda, ce ne siamo occupati anche in Cuore Denari, perché poi c'è un aspetto che oggi non riusciamo chiaramente a approfondire perché siamo ancora a narrare l'emergenza, un aspetto psicologico da non sottovalutare. Qui iniziano a svilupparsi delle sindromi che hanno, come tu ricordavi, a che fare più con gli eventi bellici, con la guerra, che non con eventi, diciamo, in uno stato di pace e eventi civili. Una notizia invece, vedo ancora, possiamo spostare le polemiche a lunedì, lo dico da alcuni ascoltatori. È chiaro che se i terremoti non sono, lo sappiamo che non sono prevedibili, c'è stata probabilmente una sottovalutazione dell'impatto della parte meteorologica e delle nevicate in quelle aree, Mariano. Quindi questo possiamo dirlo, cioè si sapeva che, allora è ovvio che la sfiga ci vede benissimo, cioè tutto il resto d'Italia dove non cade un centimetro di neve, le Alpi sono diciamo dei prati tuttora, e tutta la neve del paese si è concentrata, oggi non nevica per fortuna, si è concentrata in quell'area, neanche proprio a farlo apposta. Forse quello è stato l'elemento più criticabile, Mariano, cioè dire attenzione che se arriva veramente una perturbazione che porta un metro, due metri, in alcune fasi tre, quattro metri di neve, lì salta tutto. Sì, che i fenomeni meteo si stiano estremizzando, questo lo sappiamo da anni, ormai è diventata una barzelletta come il dissesto idrogeologico, ce lo raccontiamo e poi non riusciamo ad arginare questi fenomeni. Io però qui, parlando con i vecchi del paese di Penne, mi dicevano che nel 1956 c'era stata una nevicata di queste proporzioni. Adesso non vorrei dare ragione al lettore che citavi, all'ascoltatore, scusami, la deformazione professionale, all'ascoltatore che citavi poco fa, però mi raccontavano che a quei tempi non esisteva la protezione civile. Con questo non faccio nessuno sconto alla protezione civile, ne ho scritto a sufficienza, però ognuno prendeva la pala e faceva quello che doveva fare. Adesso qui passi da Penne e vedi i ragazzotti chiusi nei bar mentre qualcun altro dovrebbe pensare. Ecco, non c'è stata, se posso dire, una sollecitazione all'intervento civile che certo non avrebbe risolto il problema, però certo un aiuto l'avrebbe dato. Allora, e questo fa bene a indirizzare anche, come se possibile, insomma, invito, non dico critica, insomma, anche agli abitanti del luogo. Vedo e li voglio girare molti ringraziamenti di molti ascoltatori ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, a chi si sta dando da fare, alla Guardia di Finanza, alle forze dell'ordine e all'esercito che stanno dando da fare. Mariano, a questo punto tu hai capito, e poi ti lascio, quando potremo avere nuovi aggiornamenti dai Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nel suo complesso, per la parte che riguarda appunto il Penne e l'hotel Rigopiano? È in progress, come si dice in questi casi. Possiamo aspettarci le novità da un momento all'altro e speriamo che siano buone. Vabbè, prendi la linea ogni volta che, che ci sarà bisogno. Tanto io adesso mi tocca scrivere perché c'è pure il giornale. Però se avessi delle notizie ti chiamerò senz'altro. Grazie ancora Mariano Maggiore in collegamento da Penne. Laura Bettini, dopo il meteo e la pubblicità, sì, riprendiamo invece il racconto della situazione nel resto del centro Italia. Non l'abbiamo chiamato, che vive momenti, appunto, come diceva, sentivamo anche adesso, insomma, difficili. L'abbiamo chiamato, insomma, gli speciali sul centro Italia, perché è chiaro che l'hotel Rigopiano ha attratto tutta l'attenzione, ma ci mancherebbe, continua a farlo, ma c'è una situazione molto molto difficile, critica, anche in altre aree delle tre regioni interessate. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa puntata speciale di Focus Economia. Dico una cosa agli ascoltatori: guardate che forse sono stato frainteso, ma penso che siano del tutto fuori luogo tutte le polemiche, a maggior ragione. Poi uno domani può andare a valutare se ci poteva essere un'allerta meteo più forte, quello che volevo. Però in questo momento siamo tutti vicini ai soccorritori, e ripeto, forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile in senso lato, militari, basta. Cioè, anche ieri era stucchevole vedere che addirittura alcuni la buttavano in politica, ma per favore, per favore. Dopodiché, e quindi da parte mia non avrete nessuna polemica su questo, ma ci mancherebbe, e non abbiamo fatto alcuna polemica né dato spazio ad alcuna polemica da ieri che seguiamo questa vicenda. Per cui attenzione veramente su questo, non facciamo sempre paese che si divide su questo. Invece andiamo avanti con il racconto di quello che capita al di là dell'hotel Rigopiano, e quindi, diciamo, di Penne, della provincia, da parte del Pescarese, del Gran Sasso. Laura Bettini, prima di arrivare a Vincenzo Miglietta, che è da Amatrice, invece il resto dell'area interessata. Ti dico velocemente il resto, e se vuoi, se ci sarà tempo, abbiamo anche l'intervista appena realizzata al direttore dell'ospedale di Pescara, che ha ricevuto che dice che sono in arrivo 4 pazienti, se ho ben capito dalla redazione come mi è stato comunicato. Sebastiano, prima o dopo? Cosa facciamo? No, ascoltiamo il direttore dell'ospedale di Pescara subito, perché è appena arrivata l'intervista, e poi invece andiamo col racconto della giornata. Asciugo, non ti preoccupare, so che Trump incombe. Ma Trump poi incomberà per i prossimi 4 anni. Mi dici per favore il nome del direttore dell'ospedale di Pescara? Valterio Fortunato. Prego. A questo momento abbiamo ricoverato 3 pazienti che sono pervenuti dall'hotel di Rigopiano, uno nella giornata di ieri, un uomo, e nella mattinata di oggi sono arrivati una mamma con un bimbo. Le loro condizioni sono stazionari, discrete, nessuno di loro rischia la vita. Siamo attualmente in attesa di ricevere altri 4 pazienti che ci sono stati preavvertiti dalla centrale operativa in sede. Ulteriori notizie saremo in grado di darle nel prossimo briefing con un bollettino medico. Quali sono i problemi delle persone? Lei parlava di semplice ipotermia? In quelle che sono già state ricoverate, prevalentemente ipotermia. Allora, ipotermia vuol dire è il minimo che ci potevamo aspettare, quindi è una buona notizia. E invece, Laura Beltini, andiamo sul resto delle tre regioni interessate. Allora, le condizioni meteo sono state migliori oggi. Abbiamo visto prima, non ci sono grossi peggioramenti previsti su domani. L'aumento delle temperature però aumenta il rischio valanghe e slavine, ed è il timore dei soccorritori di Rigopiano, ma anche di tutti coloro che stanno lavorando in queste quattro regioni, appunto, come ricordavi tu. Situazioni molto difficili per tante frazioni isolate per la neve o per il terremoto o per la mancanza di corrente elettrica, poi faremo il punto con Enel, per mancanza di riscaldamento o anche di acqua. C'è stato il ritrovamento di tre corpi, purtroppo, quello di tre dispersi. Uno era nella zona del comune di Campotosto e poi i corpi di padre e figlio nel comune di Crognaleto. Siamo sempre nella stessa zona, non distante da Arquata del Tronto e Amatrice, che sono ormai credo tutti conoscano. Sono 8.300 gli uomini e le donne della protezione civile al lavoro, 3.000 i militari, poco meno di un migliaio i mezzi schierati, ma tanti, sono davvero tanti coloro che sono ancora isolati. E se abbiamo tempo vi faccio sentire cosa ci ha detto il coordinatore delle guide escursionistiche delle Marche, si chiama Leonardo Perrone. Sentiamo. Tantamma. Quindi ci sono parecchie richieste anche di persone anziane, dei piccoli paesini, iniziano un passaparola tra associazioni, tra gente volontaria, gente a parlare con un signore di Force, una località ad una trentina di chilometri qui da Ascoli. E sono arrivate proprio in mattinata le turbine e gli spalanevi del... sono sommersi sono sotto 2 metri di neve e quindi comunque iniziano anche a scarseggiare un po' di viveri, insomma scarseggiano. Sempre oggi il CDM ha stanziato, ricordiamo, 30 milioni per le esigenze avanzate nelle ultime 36 ore dai territori del centro Italia, si dice colpiti dal terremoto e maltempo, risorse che saranno stanziate grazie a un'ordinanza del capo della protezione civile, ha detto la ministra per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. Sebastiano. Allora, scusate, qui con i microfoni oggi stiamo lavorando parecchio. Vedo alcuni ascoltatori che mi scrivono: ma i soldi della protezione civile sono nostri, quindi se permette la polemica la faccio. Come? Guarda, lei faccia quello che vuole, ma lo può far domani, dopodomani, quando a quel punto siamo usciti dall'emergenza, di riuscire a capire chi ancora si può salvare. Tutto qua, poi che siano soldi suoi, miei, di Laura Bettini, di tutti i contribuenti non evasori fiscali che pagano regolarmente le tasse, ma non ci piove. Allora, Vincenzo Miglietta invece inviato ad Amatrice, dove la situazione chiaramente è diversa, parzialmente diversa, ma dove soprattutto oggi c'è stata l'assegnazione delle prime casette. Io non volevo far polemica, ho detto solo che certo pensare al sorteggio, mi rendo conto che non si potesse fare diversamente, ma metto un po' di tristezza, questo lo posso dire, il sorteggio sulla casetta. Tutto qui, per cui da questo punto di vista era riferito alla tristezza di chi deve aspettare un sorteggio favorevole per avere una casetta. Vincenzo, la situazione da Amatrice e che cosa è successo oggi, prego. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Parto dalla situazione meteo, vi stavo ascoltando. Campotosto è qui vicino, pochi chilometri, ancora parzialmente isolato. Ricordiamo che a Campotosto vi è una diga con un lago, si teme sempre quando ci sono le scosse per questa diga. Per quanto riguarda la neve, qui ce n'è veramente tanta, le strade sono abbastanza percorribili, ma arrivando questa mattina da Roma ho trovato e ho incontrato diversi mezzi dell'esercito con sopra le famose turbine, quindi evidentemente queste turbine prima non c'erano. Venendo al sorteggio delle cosiddette casette, ricordiamo che Amatrice è un paese che prima del sisma aveva tra i 3.000 e i 4.000 abitanti. Oggi giustamente, Sebastiano, dicevi un sorteggio triste, perché parliamo solo di 25 casette su 36 domande, quindi qualcuno innanzitutto è rimasto escluso e questo è veramente abbastanza avvilente, ma parliamo di 25 casette che, facendo una media di 4 persone sole, per famiglia, su sole 36 domande, quindi vuol dire che il 90% della popolazione non è presente ad Amatrice, evidentemente. Vabbè, questo adesso obiettivamente è immaginabile, da un lato è intuibile, ma non c'è neanche la volontà di tornare al momento. Su questo però non possiamo entrare. Mi chiedo se la domanda era così bassa, adesso io qui non ho promesso che non facevo polemica, però se veramente la differenza era di 11 casette, io ce l'ho qua sta cosa, visto che abbiamo appena trovato 20 miliardi per salvare le banche, non si riescono a trovare un milione per salvare le 11 casette, poi dici come fai a non incavolarti? No, è che voglio dire, sulle emergenze, magari io diciamo, capisco se si fosse trattato di numeri a centinaia o a migliaia, dice, attenzione, ma fa sorteggio per 25 casette, ma fai sorteggio per 36 e chiudiamola lì. Comunque Vincenzo, mi sto zitto, sì, perché... Tra l'altro Sebastiano... sentendo il sindaco Sergio Pirozzi di Amatrice, non è poi così tanto un problema di soldi quanto proprio di burocrazia, perché a distanza di 5 mesi dal sisma, ecco, si è riuscito a costruire solo 25 casette perché le altre aree non sono state ancora individuate, ma Amatrice è piena di tonnellate, migliaia di tonnellate ancora di macerie che devono essere portate via, e quando volete vi è lo sfogo del sindaco Pirozzi proprio sulla burocrazia. È chiaro che è un messaggio che mando sullo stato di guerra, però non ci dimentichiamo che qui c'è stata la distruzione pari a una guerra, e ci sono stati i morti pari a una scaramuccia. Ecco, per cui insomma non ce lo scordiamo mai, e però io dico che in situazioni di emergenza come sono queste, procedure di emergenza. Allora poi è sbagliato che ci sia un uomo solo al comando, che si affianchi con le migliori ed eccellenze italiane che vidimano, che ci mettono la faccetta. E allora poi forse tutto questo modo di dire che c'è la burocrazia, io ho trovato la soluzione che mi sembra l'uovo di Colombo, ma è talmente logica. Allora Vincenzo, le attese invece per le prossime ore e giorni ad Amatrice? Le prossime ore, i prossimi giorni, innanzitutto si guarda al cielo e si spera che non arrivi altra neve, e soprattutto si spera che non vi siano altre scosse, perché come spiegava la protezione civile e il sindaco, ogni volta che vi è una nuova scossa si riparte praticamente da zero per la stabilità dei pochi edifici rimasti, ma anche per la stabilità delle aree che alle prossime settimane dovrebbe ospitare i cittadini, che quindi dovrebbero rientrare in queste prime case, ma anche negli altri edifici che hanno retto al sisma. Quindi si guarda a tutti questi due aspetti e si spera, ecco, che soprattutto si dia un taglio alla burocrazia e che si inizino veramente a portare via le macerie per far spazio poi alla vita di tutti i giorni. Sì, vorrei capire quali fossero le altre urgenze del paese in queste settimane. Ce ne sono di urgenze, io non sto facendo la polemica, dico semplicemente che si sono trovati d'urgenza, anche tardi, i soldi ben più importanti. Allora ci può essere un decreto d'emergenza, perché ci siamo occupati di sto cavolo di referendum fino al 4 dicembre, voglio dire, no, ci può essere una procedura di emergenza per, visto che tu ci confermi che sono solo 36 i richiedenti, tutti gli altri sono ancora terrorizzati all'idea di rientrare ad Amatrice, porca miseria, non capisco come non si riesca in questi mesi a sburocratizzare e individuare il sito dove tira su le altre 11 casette che mancano. Facciamo sorteggio con gli 11 fuori, ma che è la Champions dei terremotati, ma no, non ci si può credere. Comunque grazie intanto a Vincenzo Miglietta, che ci aggiornerà nei prossimi GR. Laura Bettini, grazie anche a te, poi gli aggiornamenti verranno durante il resto della programmazione del 24, vi rimando al GR delle 18, adesso lascio la linea al traffico, poi torniamo in diretta perché inizia, e nel corso anche di Focus Economia ti chiedo, Laura, però, di intervenire anche senz'altro, più avanti sperando di portare buone notizie. E adesso inizia la lunga diretta sull'insediamento, non l'insediamento, perché la giornata di insediamento è lunghissima, è già iniziata, scambio di doni e quant'altro, ma il discorso di insediamento che ci interessa, perché da questo punto di vista lì si cercherà di capire che taglio, diciamo così, che atteggiamento prenderà Trump nel momento più formale, probabilmente dei suoi 4 anni, cioè quando deve giurare sulle famose due Bibbie, ne avrà due, e diventare ufficialmente il neo presidente degli Stati Uniti d'America, il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Traffico. Focus Economia. Allora, per almeno mezz'ora, tanto dovrebbe durare, cioè 20 minuti più la parte introduttiva, il discorso di Donald Trump che stiamo attendendo, dovrebbe iniziare alle 18. Sergio Nava ci accompagnerà in questa cronaca e in questa diretta. Buonasera Sergio. Buonasera, che cosa è già successo? Qualcuno mi chiede perché due Bibbie. Sì, due Bibbie, una è la sua e l'altra è quella utilizzata da Abraham Lincoln un secolo e mezzo fa. Detto questo, che cosa è già avvenuto adesso, a partire dall'incontro Barack Obama, Michelle Obama con Donald Trump e Ivanka? Donald Trump ha lasciato intorno alle due italiane la Blair House, dove, come tradizione vuole, i presidenti eletti trascorrono, diciamo, la notte prima del giuramento. Si è recato prima in chiesa, nella chiesa che tradizionalmente ospita i presidenti eletti nel giorno del giuramento per una funzione religiosa, e poi si è recato alla Casa Bianca, dove ha incontrato insieme alla moglie Barack Obama e la moglie Michelle. Allora, giustamente qualcuno mi dice: ma nel frattempo le borse Wall Street sul fronte economico-finanziario, l'avevamo detto in apertura, comunque Milano ha chiuso meno 0,06 e non c'è notizia, almeno lì non c'è notizia. Invece sul fronte economico-finanziario, Parigi più 0,20, Francoforte più 0,30, Dow Jones più 0,50%, Londra meno 0,14%, euro su dollaro a quota 1,07 praticamente, Bipper Banca più 1,60, CNH più 1,5, tra i titoli da segnalare, mentre Fineco più 0,90, Telecom più 0,70%, ancora UX Santa Poter meno 4,20, UbiBanca meno 2,20, Unipol meno 1,50, come Unicredit e Mediobanca, l'1,30 Lopede Campari e anche Unipol Sai. Vedo che adesso si sta avvicinando Donald Trump al leggio, diciamo, per chi è in macchina o a casa e non ha acceso la televisione. Che cosa capiterà tra pochissimi minuti, Sergio? Allora, quello che ha appena finito di parlare è il senatore Chuck Schumer, e ora dovrebbe giurare il vice di Donald Trump, Mike Pence. Forse possiamo sentire dalla televisione, da Sky. Giuro solennemente. Io, Michael Richard Pence, giuramento di Pence. Esatto, Pence che sta facendo il suo giuramento e sarà seguito immediatamente dopo da quello di Donald Trump. Prima del discorso, Pence sta giurando nelle mani del giudice supremo Clarence Thomas, e questo è il passaggio, appunto, in cui giura prima il vicepresidente e poi arriva a giurare il presidente. Dicevo, tanto insomma, il vicepresidente possiamo anche non ascoltarlo in diretta, che questa mattina da Davos sono arrivati numerosi commenti, penso a Christine Lagarde, Fondo Monetario, poco fa Hollande, il presidente francese Hollande e anche il ministro delle finanze tedesco Schäuble, tutti in un'unica direzione, e anche devo dire Juncker, presidente della Commissione Europea. Farebbe male Trump ad aumentare il protezionismo, avrebbe un effetto negativo tale da ridurre l'effetto positivo degli incentivi fiscali, gli incentivi che vuole mettere Trump all'economia americana. A chi è interessato al look, possiamo dire che Trump ha una cravatta rossa, camicia bianca e abito blu, e fin qua, diciamo, abbiamo scoperto quasi l'acqua calda, e invece è di un azzurro, dovrei chiamare i nostri colleghi che più si occupano di moda, un azzurro abbagliante. Abbagliante non è un colore, cioè, vedi che non capisci di moda. No, è un colore carta da zucchero. Colpisce per Ivanka Trump, le figlie, i figli dietro, uno schieramento impressionante, Sergio, di 28.000 agenti a Washington. Sì, la sicurezza, c'è una intera centrale, appunto, a Washington del Secret Service che sta vegliando su questi minuti cruciali, anche perché sul palco qui nell'ala ovest del Campidoglio abbiamo il presidente eletto, il vicepresidente eletto, il presidente ancora in carica e il vicepresidente ancora in carica. Sono tutti riuniti in questo momento. Barack Obama sta salutando Mike Pence dopo il giuramento. Ora dovrebbe esserci un'altra selezione musicale e dopo finalmente arriverà tra pochissimi minuti il giuramento vero e proprio di Donald Trump, come previsto tra l'altro proprio intorno alle 18 italiane, mezzogiorno americano, come tradizione possiamo anche dire vuole. Tra l'altro ci sarà subito dopo il discorso di Donald Trump, che sarà un discorso che lui stesso ha scritto di suo pugno 3 settimane fa nella sua residenza in Florida. No, devo correggermi, perché l'abito della moglie di Trump è chiaramente quello di Melania, non di Ivanka. Ivanka è la figlia. È la figlia. Ivanka ha un abito rosso rubino. Adesso mi sto improvvisando commentatore di moda, chiedo venia alle colleghe che lo fanno in maniera seria e professionale, ha un color rosso rubino, da quello che riusciamo a vedere è Melania, chiaramente, che ha un azzurro carta da zucchero abbastanza intenso come colore e appunto vivace. Prego, Sergio Tortorotto. Dicevamo appunto che è un discorso che non dovrebbe essere particolarmente lungo, almeno da quanto ha detto il suo portavoce Spicer, il portavoce entrante nella Casa Bianca, Spicer, scritto di suo pugno in Florida. Tra l'altro lo stesso Trump ieri ha twittato la foto di quando ha scritto questo discorso, scatenando non poca ironia sui social network, che sappiamo è una figura ancora abbastanza divisiva, quella di Donald Trump. In questo momento c'è il Mormon Tabernacle Choir che sta appunto cantando per introdurre quello che sarà il giuramento vero e proprio, giuramento che Donald Trump farà davanti al presidente della Corte Suprema John Roberts. Lo farà sulla Bibbia di Abraham Lincoln e la sua personale, che aggiungo, Sebastiano, gli fu data dalla madre nel 1955 al termine della scuola domenicale. C'è anche quindi un tocco, se vogliamo, di infanzia in questo giuramento di Donald Trump, che appunto ormai è veramente questione di pochi istanti. Tra l'altro i festeggiamenti oggi sono meno rispetto a quei giorni di festeggiamento rispetto ai giorni di Obama, sono 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato, contro gli oltre 5 di Obama. Trump si farà vedere solo a 3 balli, sì. C'è anche la famosa agenzia Masti, però dobbiamo darle queste cose. Tre balli invece che gli 8 di Obama, e i 14 di Clinton. Sì, sì. Clinton piaceva molto ballare. E i costi dell'Inauguration Day e della settimana di eventi paralleli si aggirerebbero circa sui 200 milioni di dollari a carico dei contribuenti e dei donatori privati, dai quali sono arrivati oltre 90 milioni di dollari, cifra doppia. È vero che lui ha il tasso di gradimento più basso di un presidente neoeletto, il 40%, però interessante che come donazioni private Trump, per i costi dell'Inauguration Day, ha ricevuto quasi il doppio rispetto ai 53 milioni ottenuti da Obama per il suo primo insediamento, non per il secondo, quindi per quello più importante da un punto di vista anche storico. C'è poi il boicottaggio di una quarantina di deputati democratici e la manifestazione di protesta domani, se ho ben capito. Allora, c'è già in corso una manifestazione di Black Bloc a Washington, che hanno vandalizzato anche uno Starbucks, una limousine, insomma gli agenti sono intervenuti con spray urticanti. Però la vera e propria manifestazione sarà una manifestazione molto al femminile, sarà domani alle 10 ora locale, 10 del mattino. Si attendono veramente migliaia e migliaia di donne che marceranno per protestare contro Trump, proprio anche per rovinarli il giorno dopo l'insediamento in qualche modo, e sarà già un avvertimento, se vogliamo, a un presidente che in qualche modo ha diviso il paese, anche se lui ha detto che intende ora unificarlo o riunificarlo, e mi sa che siamo veramente ormai giunti al momento cruciale. E infatti sta prendendo la parola davanti al palco presidenziale Donald Trump per il giuramento. Possiamo ascoltarlo in diretta. Per favore, alzi la mano destra e ripeta dopo di me. Io, Donald John Trump, giuro solennemente. Io, Donald John Trump, giuro che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti e con la mia massima abilità preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti. Che Dio mi aiuti. Congratulazioni, signor Presidente. Donald Trump giurando sulla Bibbia. Ecco che il giuramento, la Bibbia la reggeva Melania. Devo dire, sui colpi, le salve di cannone, devo dire che risultava quasi più emozionata Melania nell'immagine televisiva di Trump. Trump non ha mostrato un'emozione, una smorfia, un tentennamento, una voce, cioè proprio... È un uomo da palcoscenico, non dimentichiamolo. Comunque sì, ha una... però dico, è impressionante, perché non ha mostrato un, diciamo, nella fisionomica, in nulla un'emozione nel giurare come 45esimo presidente degli Stati Uniti. Devo dire che la cravatta rossa ci aveva abituato Già in campagna elettorale, perché se ricorderete che lui quasi sempre nelle sfide a due con Hillary Clinton aveva una cravatta rossa proprio per sbagliare le carte. Un ascoltatore mi dice: ormai Barisoni, lei riesce a commentare meglio il colore dei vestiti che non l'andamento della borsa. Vabbè, peccato che abbiamo appena finito le sfilate a Milano. Vediamo se riuscirò a riciclarmi anche in questo. Che cosa capiterà adesso, Sergio? Però vorrei fare un punto con la nostra Roberta Pelegatta, perché il GR24 oggi salta, tutta la programmazione è abbastanza particolare, ma al di là della situazione Centro Italia, di cui abbiamo appena parlato, torneremo a parlare, e del discorso di Trump, Roberta Pelegatta, le altre notizie del giorno. Sì, ben trovati. Il punto sulle principali notizie all'interno di questo speciale dedicato a Donald Trump. Come avete sentito, ha appena giurato il tycoon, che adesso è il 45esimo presidente degli Stati Uniti, ma c'è da aggiungere che ci sono stati scontri a Washington nel corso delle manifestazioni anti-Trump, con tafferugli tra un gruppo di manifestanti vestiti di nero con il volto coperto e la polizia assetto antisommosse, con le vetrine di alcuni negozi andati in frantumi. In Italia, adesso veniamo, dove, come abbiamo detto, come avete sentito, proseguono le operazioni di soccorso in Abruzzo. I vigili del fuoco, dopo aver individuato e raggiunto una settima persona sotto le macerie dell'hotel Rigopiano, sono entrati in contatto con altre tre persone intrappolate nell'albergo. Si tratta di una donna e di due bambini. Voltiamo pagina. Banca d'Italia vede i rischi per la crescita dal diffondersi di spinte protezionisti. I principali fattori di incertezza, spiega, provengono, oltre che dalle condizioni finanziarie, dal contesto mondiale. Banca Italia conferma le stime per la crescita dell'economia italiana nel 2016 e nel 2017 lo 0,9%. Chiudiamo con lo sci. 19esimo podio di stagione per l'Italia, giunto oggi grazie a Christoph Ineoffer, che è arrivato secondo nel Super GD Kitzbühel dietro all'austriaco Matthias Mayer. Grazie Roberta Pelegatta. Inizio a parlare da pochi istanti Donald Trump. Ogni 4 anni noi ci raduniamo qui per portare avanti un trasferimento pacifico di potere, e siamo grati al Presidente Obama e alla First Lady Michelle Obama per il loro aiuto durante questa transizione. Sono stati magnifici, grazie. La cerimonia di oggi comunque ha tanti significati speciali, perché oggi non stiamo solo trasferendo il potere da un'amministrazione ad un'altra o da un partito all'altro, ma stiamo trasferendo il potere da Washington DC e lo stiamo dando a voi, lo stiamo restituendo a voi, il popolo. Per troppo tempo un piccolo gruppo nella nostra capitale ha creato una guerra con il governo, mentre la gente ne portava il peso, il costo. Washington è fiorita, ma la gente non ha condiviso la sua ricchezza. I politici hanno prosperato, ma la gente è stata licenziata, le aziende sono state chiuse. L'establishment ha protetto se stesso, ma non i cittadini del nostro paese. Le loro vittorie non sono state le vostre vittorie. I loro trionfi non sono stati i vostri trionfi. E mentre stavano celebrando nella capitale della nostra nazione, c'era poco da celebrare per le famiglie che stavano lottando in tutto il nostro paese. Tutti questi cambiamenti sono iniziati qui e ora inizieranno i cambiamenti, perché questo momento appartiene a voi. E appartengono a tutti coloro che sono qui oggi e tutti coloro che stanno guardando in tutto il mondo. Questo è il vostro giorno, questa è la vostra celebrazione, e questi Stati Uniti d'America sono il vostro paese. Ciò che conta realmente non è quale partito controlla il governo, ma se il nostro governo è controllato dal popolo. Il 20 gennaio del 2017 sarà ricordato come il giorno che il popolo divenne veramente il presidente di questo paese. Le persone dimenticate di questo paese non saranno più dimenticate. Tutti quelli che stanno ascoltando, siete venuti in milioni per diventare un movimento storico che darà luce al mondo, una luce che non ha mai visto prima. Al centro di questo movimento c'è una convinzione cruciale che una nazione esiste per servire i suoi cittadini. Gli americani vogliono scuole per i figli, sicurezza per il proprio quartiere e lavori per, buoni lavori per loro stessi. Queste sono richieste ragionevoli e giuste da parte di persone giuste e da un pubblico giusto, ma per troppi nostri cittadini c'è una realtà differente, madri e figli che lottano nella povertà nelle nostre città, aziende arrugginite che si ergono come pietre tombali nel paesaggio del nostro paese e un sistema dell'istruzione che spreca soldi, che lascia i nostri studenti deprivati dalla conoscenza. E il crimine e le bande, la droga che hanno portato via troppe vite e hanno rapinato il nostro paese di così tanto potenziale, ma questi problemi si fermano qui e si fermano ora. Siamo una sola nazione e il suo dolore è il nostro lavoro, è il nostro dolore e le sue speranze sono le nostre speranze, il suo successo sarà il nostro successo. Condividiamo un cuore solo, una sola casa e un solo destino glorioso. Il giuramento che ho fatto oggi è un giuramento di alleanza verso tutti gli americani. Per molti decenni abbiamo arricchito le industrie estere, abbiamo dato le armi ad altri paesi e abbiamo permesso l'impoverimento del nostro esercito. Abbiamo difeso altre nazioni e i confini delle altre nazioni rifiutando di difendere i nostri confini. E abbiamo speso trilioni e trilioni di dollari all'estero mentre le infrastrutture americane erano distrutte e lasciate nel degrado. Abbiamo reso paesi ricchi mentre la fiducia del nostro paese, la ricchezza del nostro paese scompariva all'orizzonte. Una per una le aziende hanno chiuso e hanno lasciato e se ne sono andate all'estero, senza nemmeno pensare ai milioni e milioni di americani, di lavoratori americani che sono stati lasciati indietro. La ricchezza della nostra classe media è stata tolta dalle case e ridistribuita in tutto il mondo. Ma questo è il passato ed ora stiamo guardando solo verso il futuro. Siamo qui oggi riuniti per creare un nuovo decreto per ogni capitale estera, per ogni paese, per ogni potere. Da questo giorno in poi una nuova visione governerà la nostra terra. Da questo giorno in avanti sarà solo l'America per prima, verrà solo l'America per prima. Ogni decisione sul commercio, sulle tasse, sull'immigrazione, sugli affari esteri, sarà fatta per beneficiare i lavoratori americani e le famiglie americane. Dobbiamo proteggere i nostri confini dai saccheggi degli altri paesi che rubano le nostre compagnie e che distruggono la nostra occupazione. La protezione porterà più prosperità e più forza. Combatterò per voi con ogni respiro nel mio corpo e non vi lascerò mai e poi mai indietro. L'America inizierà a vincere di nuovo, a vincere come mai prima d'ora. Porteremo di nuovo a casa i nostri lavori, metteremo in sicurezza i nostri confini, porteremo a casa la ricchezza e riporteremo a casa i nostri sogni. Costruiremo nuove strade, autostrade, ponti, aeroporti, ferrovie in tutta la nostra magnifica nazione. Toglieremo la nostra gente dal welfare e li rimetteremo a lavorare. Ricostruiremo il nostro paese con il lavoro americano e con le mani americane. Seguiremo due semplici regole. Gli americani assumeranno gli americani. Cercheremo amicizia e buona volontà con le nazioni del mondo, ma lo faremo sapendo che è il diritto di tutte le nazioni mettere al primo posto i propri interessi. Non cercheremo di imporre il nostro modo di vita su nessuno, ma piuttosto lo faremo risplendere come esempio e noi risplenderemo per tutti affinché ci seguano. Rafforzeremo le vecchie alleanze e ne creeremo delle nuove e riuniremo il mondo contro il terrorismo radicale islamico che toglieremo completamente dalla faccia della terra. Nella nostra politica ci sarà un'alleanza verso gli Stati Uniti d'America e attraverso la nostra lealtà verso il nostro paese noi riscopriremo la nostra lealtà verso il prossimo. Quando aprite il cuore al patriottismo non c'è spazio per il pregiudizio. La Bibbia ci dice quanto è bello quando il popolo di Dio vive insieme nell'unità. Dobbiamo parlare con mente aperta, dobbiamo parlare dei nostri disaccordi in modo onesto, ma dobbiamo portare avanti sempre la solidarietà. Quando l'America è unita, l'America è totalmente non può essere fermata. Non ci deve essere paura, siamo protetti e saremo sempre protetti. Saremo protetti dagli grandi uomini e donne del nostro esercito e delle forze dell'ordine. E la cosa più importante, noi saremo protetti da Dio. Infine, dobbiamo pensare in grande e pensare ancora più in grande. In America sappiamo che una nazione può vivere solo quando il suo popolo è forte. Non accetteremo più politici che parlano soltanto senza fare nulla, che si lamentano ma che non fanno mai nulla. Il momento delle chiacchiere è finito. Ora arriva l'ora dell'azione. Do not Non permettete a nessuno di dirvi che qualcosa non può essere fatto. Nessuna sfida. È troppo alta per gli americani. Noi prospereremo ancora. Il nostro paese prospererà ancora. Siamo all'alba di un nuovo millennio e possiamo dischiudere i misteri dello spazio. Possiamo far scomparire le malattie e possiamo investire nella tecnologia del futuro. Un nuovo orgoglio nazionale si è creato e può curare le nostre divisioni. È il momento di ricordare che ciò che tutti i soldati sanno, che se siamo bianchi, marroni o neri, dobbiamo tutti la nostra vita al sangue rosso dei nostri patrioti. Tutti godiamo delle stesse libertà e noi salutiamo la nostra grande bandiera americana. E non importa dove è nato un bambino, se nelle periferie di Detroit o nelle pianure del Nebraska, loro guardano tutti lo stesso cielo ed hanno il cuore pieno degli stessi sogni. E loro hanno un sospiro di vita dallo stesso onnipotente creatore. Quindi a tutti gli americani, in ogni città, vicina e lontana, piccola o grande, da montagna a montagna, da oceano ad oceano, ascoltate queste parole. Voi non sarete mai più ignorati. La vostra voce, le vostre speranze, i vostri sogni definiranno il nostro destino americano. Il vostro coraggio e la vostra bontà ci guideranno in questa strada. Insieme noi renderemo l'America ancora forte, renderemo l'America ricca di nuovo, renderemo l'America orgogliosa di nuovo, renderemo l'America sicura di nuovo. E sì, insieme noi renderemo l'America grande ancora. Grazie, Dio vi benedica e Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Grazie. Dio benedica l'America. Allora, ha rispettato tutte le attese. Vedo Barack Obama che applaude con la cravatta blu, sì, tranquillo, non allegro, non contento. Michelle molto più crucciata, Michelle Obama. Dicevo, Bill Clinton sullo sfondo, ha rispettato tutte le attese, applaude anche Bill Clinton. Questo è il grande segno di civiltà che ogni volta raccontiamo nel passaggio, diciamo, presidenziale degli Stati Uniti. Rispettato i tempi previsti e qui veniamo invece alla sostanza, rispettato i temi previsti, cioè chi si aspettava, non si immaginava, si ragionava un Donald Trump così più istituzionale, più sui temi, insomma, terrò dentro tutto, allora io ho segnato, vabbè, questo è il vostro paese, finalmente torna al centro il popolo e i dimenticati non saranno più dimenticati il giorno in cui tutto il popolo americano diventa presidente di questo paese, e qui lo chiamo Trump vs contro l'elite, il Trump populista, popolo. Populista è il vero senso della parola, sì. E poi abbiamo arricchito le industrie degli altri paesi, difeso gli altri confini, non i nostri, e qui andiamo sul tema del Trump, diciamo, politica estera, non dico contro la NATO, ma per un tornare a difendere esclusivamente o principalmente le frontiere americane. E l'isolazionismo continua, c'è un altro passaggio in cui dice abbiamo reso altri paesi ricchi mentre noi, qui è più il protezionismo economico che l'isolazionismo, diciamo, di politica estera, mentre noi ci impoverivamo e lasciavamo indietro la classe media dei nostri lavoratori. E poi due volte American First, l'America per prima, la protezione ci darà più prosperità e forza, riporteremo a casa le ricchezze che sono andate all'estero e infine quello che secondo me potrebbe diventare lo slogan, sì, per carità, il tempo delle chiacchiere è finito, ma lo slogan più efficace, in americano viene meglio che in italiano, però è Buy American and Hire American. Lì c'è un errore del traduttore, vuol dire compra americano e assumi americani. Sergio. Sì, diciamo che, la, come dicevi tu, la faccia di Michelle Obama, secondo me, più di tutti riassume quello che chi ha preceduto Trump pensa. Insomma, Trump ha fatto praticamente una cesura vera e propria con tutto quello che l'ha preceduto. Ha di fatto fatto terra bruciata con tutto ciò che è venuto prima di lui. E ha detto, prima di noi era la catastrofe, questo era il senso delle sue parole, adesso si cambia. E ed è stato un discorso a 98% incentrato sugli Stati Uniti. Ha fatto un velocissimo accenno di politica estera quando ha detto rafforzeremo le vecchie alleanze, ne formeremo di nuove, qui forse si riferisce anche alla Russia, e ha detto cancelleremo l'ISIS dalla faccia della terra. Dopodiché è stato un discorso completamente incentrato sugli Stati Uniti, con un accento molto populista, e non lo sto dicendo con critica, ma perché populista no, no, accento, dato di fatto, è un dato di fatto, insomma, ha detto questo, siete voi popolo, siete venuti alla Casa Bianca. E governerete voi da domani, da oggi anzi, e soprattutto ha detto prima abbiamo arricchito gli altri, prima siamo andati a proteggere i confini e gli altri, riferito a noi europei chiaramente, adesso invece dobbiamo investire l'Asia, sì. Cioè, sì, Trump dimentica che il 40% quasi del debito americano gliel'hanno pagato in questi anni gli americani e i cinesi, ma queste sono cose fattuali. Restiamo alla parte politica. Per cui c'è anche del gran un po' di qualunquismo nel dire abbiamo reso ricchi gli altri. No, aspetta, così come gli italiani hanno più di metà del loro debito in mano estera, gli americani hanno quasi il 38% di debito in mano cinese, per cui tu puoi dire quello che vuoi, ma se non c'erano i cinesi a finanziarti le obbligazioni in questi anni, i prestiti al debito americano, auguri. E ricordiamo che comunque la crisi del 2008 l'ha scatenata Wall Street, non l'ha scatenata la Cina o l'Europa, l'ha scatenata l'avidità dei banchieri d'affari che Trump conosce bene di Wall Street. Ma detto questo, restiamo non appunto sul giudizio ma sull'analisi, è un Trump che conferma tutti i temi forti della sua campagna elettorale. Assolutamente. L'isolazionismo, il popolo che governa finalmente, i reietti o gli emarginati che non sanno più emarginati, l'America che deve arrivare prima. Ripeto la frase che a me è sembrata più emblematica: buy American and hire American, e quindi assumi i cittadini americani, quindi lascia lavoro lì, cose che già Sergio avevamo visto nei giorni precedenti a questo giuramento, quando subito, fin da subito, Trump è andato a muso duro sulle case automobilistiche americane, Ford, GM, Fiat Chrysler, ringraziandone alcune e diciamo criticandone altre, Toyota, perché non muovono gli investimenti dal Messico verso gli Stati Uniti, non fanno il cosiddetto reshoring. Sì, chi si aspettava un Trump tra virgolette più istituzionale, che desse un segnale anche minimo di continuità con l'amministrazione che l'ha preceduto, penso che abbia avuto la conferma che Trump intenda andare sulla sua strada. Come lo farà lo scopriremo da oggi. Ricordiamo anche una cosa, che Trump a causa di un rallentamento incredibile che ha nel processo di transizione ha dovuto tenere 50 funzionari dell'amministrazione Obama in carica, perché altrimenti l'amministrazione degli Stati Uniti non potrebbe funzionare, soprattutto in settori strategici, tra cui anche la guerra al terrorismo. Quindi sotto il punto di vista della transizione non ha brillato, questo forse non lo si è detto abbastanza, non è emerso abbastanza, ma sui giornali americani oggi era abbastanza sottolineato. Dal punto di vista del meccanismo della transizione non ha brillato, vedremo se al messaggio farà seguire un'azione efficace. E poi appunto riferimento a riporteremo la ricchezza negli Stati Uniti, ma che rientra nel filone fai l'America grande di nuovo, no? Nel senso, cioè rendi l'America di nuovo grande, che uno può anche dire ma non è mai stata piccola, però insomma questo è il taglio, l'elemento politico con cui Trump ha vinto la campagna elettorale. Gli americani vengono prima, Dio difende l'America, l'ha detto, cioè difende, il miglior alleato che abbiamo è Dio, compra americano e assumi americani, riportiamo la ricchezza in America, proteggiamo i confini americani, usiamo le spese per le armi per l'America, non per proteggere altri paesi. Insomma, è l'America al centro di tutto. È America per noi europei, insomma, si profilano 4 anni non proprio semplici, potremmo dire. Sì, se l'alba, poi se potremmo, anche dal discutere, se l'Europa non debba anche smettere di avere una balia in alcune cose e non inizia anche a dimostrare se esiste e se sa camminare con le sue gambe, e se no venga messa alla badante. Ma non illudiamoci di aver raggiunto l'età adulta, per usare questo paragone. Allora, io ringrazio Sergio Nava e invece torno in chiusura del programma e riparto da dove ci eravamo lasciati, cioè gli aggiornamenti continui che stiamo facendo da ieri mattina sulla situazione in primo luogo in provincia di Pescara, ma anche in tutto il resto del centro Italia. Allora, hotel Rigoplano, dammi una buona notizia, Laura Bettini. Allora, buona notizia. Beh, ti posso dire che ci sarebbero altre 3-5 persone localizzate. Questo mi sembra già essere di per sé una buona notizia. E l'ultimissima buona notizia appena battuta dalle agenzie è che i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre i 3 bambini che avevano individuato, di cui abbiamo parlato nello scorso collegamento. Quindi a questo punto abbiamo 4 bambini che sono stati salvati, 6 adulti, poi ci sono 4 persone, diciamo, vicine che i soccorritori stanno cercando, anzi forse però tra queste c'erano i 3 bambini. Adesso bisogna riaggiornare un po' i calcoli, quindi potrebbe esserci ancora un adulto da tirar fuori dalle macerie, e questi altri 3 o 5, non è ancora chiaro, che sono stati localizzati perlomeno. Ora, pericolo valanghe, l'abbiamo detto prima, questo ha reso difficile magari i soccorsi. Però, insomma, nel la pomeriggio. Notizia è buona, ragazzi, adesso qui la notizia buona è che hanno recuperato altri 3 bambini, e stiamo sempre parlando dell'ormai, diciamo, tragico e famigerato hotel, e quindi Rigopiano. L'hotel Rigopiano, quindi i 3 bambini che in tutto, prima facciamo un calcolo, tra i 10 e gli 4 bambini. Sì, sì. Di come dispersi, prima ricordavamo che dovrebbero essere tra i 10 e gli 11, sono sempre numeri da prendere con le pinze, col beneficio del dubbio, però sarebbero. Diciamo, no, si scende come numero. Arriviamo, certo, ne mancherebbero ancora una quindicina, 10-15, perché se davvero eravamo arrivati a 35 il conteggio di ieri, non meno di 30. E a questo punto possiamo fare 6, 4, 10, 15, se ne mancano e comunque ancora. Invece una notizia non buona, ma non è una notizia, nel senso è un rischio, un allarme. Mi riferisco a quanto detto poco fa dal presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Doglioni, il quale ha detto non sorprenderebbe se nelle zone colpite dai terremoti del 18 gennaio si verificasse una scossa di intensità pari o superiore a quelle avvenute. Non sorprenderebbe. Non sappiamo quanto possa essere Mariano Maugeri poco fa, l'energia però, ancora da liberare. Non sappiamo se questo è l'inizio o se è la fine. Se siamo nella parte, diciamo, crescente, in salita o in discesa. È più che legittimo dire che non è da escludere un evento più importante, ma non è possibile dire quando. Ho capito. Però, insomma, è giusto anche ricordare che non stiamo, ahimè, solo festeggiando il fatto che abbiano recuperato altre 3 bambine oltre alla prima di questa mattina, ma che è tutto da vedere che sia terminata la situazione. Anzi, il presidente di Geofisica dice potrebbe, non ci sorprenderebbe se questo fosse l'inizio di una nuova serie sismica, non so se di sciame sismico o quant'altro. Io nel ringraziare tutta la redazione di Radio 24 e quindi nello specifico anche qui Laura Bettini e Sergio Nava e la redazione nel suo complesso per il lavoro egregio che sta facendo da ieri mattina di aggiornamento del terremoto, lascio come sempre la linea alla nostra programmazione. Ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione e in studio. Auguro a voi e in particolar modo a questo punto a tutte le popolazioni del centro Italia colpite il migliore augurio di non dover commentare altre notizie negative. Mi sembra che non manchino. A chi mi scrive, guardi che anche qualcun altro diceva Dio è con noi, riferito a Trump. Ho capito la battuta, la Gott mit uns dei nazisti, ma Trump ha detto Dio è con l'America, Dio è quello che sorveglia l'America, è il nostro più grande alleato. Adesso, quando tu giuri sulla Bibbia devi anche aspettarti un riferimento a Dio. È diversa l'investitura negli Stati Uniti rispetto a quella che facciamo noi con la campanellina. Quando, vabbè, non voglio fare altri commenti. Grazie a tutti, grazie alla redazione, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.